Terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Rabomi. Tutto a un tratto risuonarono le note della Marsigliese. Le porte del palazzo erano aperte. Il Sonnet e Federico si sporsero sulla rampa. Era il popolo. Si precipitò su per la scalinata, agitandosi in ondate vertiginose di teste scoperte, copricapi di cuoio, berretti rossi, spalle, baionette, con un impeto tale che alcuni erano come inghiottiti dentro quella massa brulicante che saliva, saliva sempre, simile a un fiume compresso dall'alta marea, spinta da un irresistibile impulso cui faceva da sfondo sonoro un lungo, sordo muggito. In alto la fiumana si disperdeva, il canto cadde. Sotto la spinta della folla entrarono senza volerlo in una grande sala dove un baldacchino di velluto rosso si innalzava sino al soffitto. Al di sotto, sul trono, s'era seduto un proletario dalla barba nera, con la camicia sbottonata sul petto e l'aria ilare e stupita di un fantoccio. Altri s'accalcavano sulla pedana per mettersi al suo posto. «Ecco il grande mito», disse Sonnet, «il popolo sovrano!» Il trono, sollevato a forza di braccia, attraversò ondeggiando tutta la sala. «Perdinci, guarda come beccheggia! Il vascello dello Stato sballottato su un mare in tempesta! Che danza frenetica!» Fu trascinato fino a una finestra e da lì, in mezzo a una selva di fischi, scaraventato fuori. «Povero vecchio Stato!» commentò il Sonnet, seguendone il tonfo giù in giardino, dove subito fu raccolto, portato a spasso fino alla Bastiglia e dato alle fiamme. Esplose allora una gioia frenetica, come se al posto lasciato vuoto dal trono fosse comparso un avvenire di felicità senza limiti. E il popolo, meno per vendicarsi che per un'affermazione di possesso, si diede a frantumare specchi, a lacerare tendaggi, a fare a pezzi i lampadari, i candelabri, i tavoli, le sedie, gli sgabelli, tutta la mobilia, persino le collezioni di disegni, i fiori ricamati. Ottenuta la vittoria, bisognava pur divertirsi. La canaglia s'agghindò buffonescamente di pizzi e scialli preziosi. Frange dorate s'attorcigliavano alle maniche dei camiciotti, cappelli con piume di struzzo ornarono le teste dei fabbri ferrai. I nastri della Legion d'Onore servivano da cintura alle prostitute. Ciascuno dava sfogo a un suo capriccio. C'era chi beveva, chi s'era messo a ballare. Nella stanza della regina una donna si dava la pomata sui capelli. Dietro un paravento, due appassionati di carte erano intenti al gioco. Cresceva di continuo, fino al delirio, il fracasso delle porcellane mandate in frantumi, delle schegge di cristallo che risuonavano rimbalzando come le note di un'armonica. Poi il furore si fece cupo. Una curiosità oscena spingeva la gente a frugare nei salottini, negli spogliatoi, in tutti gli angoli ad aprire tutti i cassetti. Avanzi di galera affondavano il braccio nelle lenzuola delle principesse, ci si rotolavano sopra per consolarsi di non poter avere loro tra le grinfie. Altri, dai visi ancor più sinistri, vagavano in silenzio alla ricerca di qualcosa da rubare, ma c'era troppa gente intorno. Guardando dai vani delle porte l'infilata dei saloni, non si scorgeva che la massa del popolo, scura contro le dorature, è avvolta in una nube di polvere. Tutti ansimavano, il caldo si faceva via via più soffocante. I due amici guadagnarono l'uscita. In anticamera una puttana era dritta sopra un mucchio di panni in posa di statua della libertà, immobile, con gli occhi spalancati, faceva paura. Fuori non fecero in tempo a fare tre passi che si imbatterono in un plotone di guardie municipali in bassa uniforme, i quali, togliendosi il berretto e scoprendo in quell'atto le loro teste un po' calve, salutarono il popolo con un profondo inchino. A tale testimonianza di rispetto i vincitori in brandelli gonfiarono il torace. Anche i Sonnet e Federico non mancarono di provarne qualche piacere. Poi raggiunsero il giardino delle Tuileries. Si sedettero su una panchina e rimasero qualche minuto con gli occhi chiusi, talmente storditi che non trovavano neanche la forza di parlare. Intorno a loro i passanti si scambiavano informazioni. La duchessa d'Orléans era stata nominata reggente, era finita ormai. In tutti aleggiava una sorta di benessere. Attrasse l'attenzione di Federico e di Sonnet un pezzo d'uomo che marciava svelto tra gli alberi col fucile in spalla. Il suo camiciotto rosso era stretto in vita da una cartucciera. Intorno alla fronte, sotto il copricapo a visiera, aveva infilato un fazzoletto. Volse la testa. Era Dussardier. E gettandosi nelle loro braccia... «Che felicità, amici! Che felicità!» Senza riuscire a dir altro, tanto ansimava di stanchezza e di gioia. Era in piedi da 48 ore. Aveva dato mano alle barricate del quartiere latino, s'era battuto in Rue Rambuteau, salvando la vita a 3 dragoni, ed era entrato alle Tuileries, e infine era stato alla Camera e al Municipio. «Ne vengo adesso. Va tutto bene. Il popolo trionfa. Operai e borghesi fraternizzano. Ah, se sapeste le cose che ho visto, quanta brava gente! È meraviglioso!» E senza accorgersi che non erano armati, «ero sicuro di trovarvi qui. Per un po' è stata dura, vero? Ma non importa». Un rivoletto di sangue gli scorreva sulla guancia. Alle domande degli altri, «Oh, non è niente, è un graffio di baionetta. Dovresti farti medicare, però». «Bah, sono una pellaccia io. Cosa vuoi che conti? La Repubblica è proclamata, saremo tutti felici». «Ho sentito dei giornalisti poco fa che parlavano proprio davanti a me. Sembra che la Polonia e l'Italia saranno liberate». «Niente più re, capite? Tutta la terra libera, tutta la terra!» E abbracciando l'intero orizzonte con un solo sguardo, spalancò le braccia in un gesto di trionfo. Ma una lunga fila di uomini in corsa si profilò sulla terrazza. «Per tutti i diavoli, dimenticavo! Le fortezze sono occupate! Bisogna che ci vada! Addio!» E ancora, brandendo il fucile, s'era voltato per gridare «Viva la Repubblica!» Domani, appena sveglio, Federico pensò a Delorier. Corse da lui. L'avvocato era appena partito, essendo stato nominato commissario in provincia. La sera prima era riuscito ad arrivare fino al deputato Ledru Rollin e, parlando, senza concedergli tregua, a nome delle scuole, gli aveva strappato un incarico, una missione. Comunque, lo informò il portinaio, doveva scrivere in settimana per dare il suo indirizzo. Via di lì, Federico passò a trovare la marescialla. Lo ricevette acidamente, non perdonandogli d'averla piantata in asso. Il rancore svanì alle sue reiterate profferte di pace. Tutto era tranquillo ormai, non c'era nulla da temere. Federico s'era messo ad accarezzarla e Rosanette si dichiarò per la Repubblica, come del resto aveva già fatto Monsignore Arcivescovo di Parigi e come s'apprestavano a fare, con ammirevole zelo, la magistratura, il Consiglio di Stato, l'Istituto, i marescialli di Francia, il conte de Fallù, bonapartisti e legittimisti in massa e una notevole percentuale di orleanisti. Di tutti i francesi, quello che tremava più degli altri era D'Ambrèse. La situazione nuova era di minaccia alla sua fortuna, ma più ancora costituiva un duro colpo per la sua esperienza. Ma come? Un sistema tanto buono, un re così saggio, era la fine del mondo. Dopo un giorno aveva già licenziato 3 domestici e venduto i cavalli. S'era persino comprato, per avventurarsi in strada, un cappello floscio. Progettò di farsi crescere la barba. E se ne restava tappato in casa, accasciato, rileggendo amaramente i giornali più ostili alle sue convinzioni. Temeva di essere esposto, come sostenitore del passato regime, a vendette popolari sulle sue proprietà nella Champagne. Fu a questo punto che gli caddero sott'occhio le lucubrazioni di Federico. Si figurò allora che il suo giovane amico fosse un personaggio molto influente, che avrebbe potuto, se non aiutarlo, perlomeno proteggerlo. E così, un bel mattino, si presentò a casa sua accompagnato da Martinon. La sua visita, spiegò, non aveva altro scopo che vederlo un poco, scambiare qualche parola. Tutto sommato era felice di ciò che era successo e adottava con entusiasmo il nostro motto sublime: «Egalité, liberté, fraternité», dato che in fondo era sempre stato repubblicano. Se aveva votato sotto l'altro regime a favore del ministero, era stato semplicemente per affrettare la sua inevitabile caduta. In seguito, D'Ambrèse dichiarò tutta la sua simpatia verso gli operai. «Più o meno siamo tutti operai, no?» E spingeva la sua imparzialità fino a riconoscere che Proudhon aveva una sua logica, e molta anche, niente da dire. Ad ogni parola di D'Ambrèse, Martinon faceva dei vigorosi cenni d'approvazione. Anche lui era convinto che bisognava avvicinarsi lealmente alla Repubblica. Parlò di suo padre, contadino. S'atteggiava a lavoratore, a uomo del popolo. Ben presto vennero a discorrere delle elezioni per l'Assemblea nazionale e in particolare dei candidati per il collegio di Nogent. Quello dell'opposizione non aveva la minima probabilità di riuscita. «Perché non prende lei il suo posto?» disse D'Ambrèse. Federico protestava. «Ma perché no, dal momento che avrebbe ottenuto i suffragi delle sinistre grazie alle sue opinioni personali e quelle dei conservatori per via della sua famiglia?» Federico obiettò che non sapeva da che parte cominciare. Niente di più facile. Bastava farsi raccomandare ai patrioti della regione dell'Aube da un circolo della capitale. Si sarebbe trattato di leggere, al posto di una professione di fede come se ne vedeva ogni giorno, una seria esposizione di principi. «Me la sottoponga. So io quel che ci vuole per quell'ambiente e lei potrebbe rendere, glielo ripeto, dei servigi importanti al paese, a noi tutti, anche a me». Federico non poteva fare a meno di riflettere sul suo consiglio e una specie di vertigine non tardò a fargli girare la testa. Si vedeva già col panciotto a risvolti e la cintura tricolore. E quella smania, quell'allucinazione diventarono così forti che andò a sfogarsene con Dussardier. L'entusiasmo di quel bravo ragazzo non veniva mai meno. «Ma certo, ma naturale, devi presentarti!» Federico, tuttavia, si rimise a Delorier. L'opposizione imbecille che il commissario aveva trovato fra i piedi in provincia ne aveva accresciuto il liberalismo. La sua risposta fu immediata e piena di violente esortazioni. Non di meno, Federico aveva bisogno di un maggior numero di consensi e ne parlò a Rosanette un giorno che c'era anche la Vatnaz. La signorina era una delle tante zitelle parigine che ogni sera, finito il loro giro di lezioni o sospesi i loro tentativi di vendere qualche disegno o di collocare qualche gramo manoscritto, rientrano in casa con la gonna infangata. Si preparano la cena, la mangiano in solitudine e poi, coi piedi sullo scaldino, alla luce di una lampada mal pulita, sognano un amore, una famiglia, un focolare, un po' di felicità. E così anche lei, come molti altri, aveva esultato alla rivoluzione come all'avvicinarsi di una vendetta e si dedicava a una sfrenata propaganda socialista. L'emancipazione del proletariato, secondo la Vatnaz, aveva come presupposto l'emancipazione della donna. Una candidatura di Federico le parve propizia ai suoi progetti. L'incoraggiò, facendogli intravedere la gloria all'orizzonte. Quanto a Rosanette, era lusingata dall'idea che il suo uomo avrebbe parlato alla Camera. «E poi ti daranno un buon posto, non credi?» Federico, uomo di tutte le debolezze, si lasciò travolgere dalla pazzia universale, scrisse un discorso e andò da D'Ambreuse per farglielo vedere. Federico diede la stura al suo discorso. Già alla seconda pagina, che denunciava come una vergogna il prevalere degli interessi pecuniari, D'Ambreuse fece una smorfia. Più avanti, passando alle riforme, Federico chiedeva la liberalizzazione dei commerci. Ma mi stia a sentire. L'altro non l'ascoltava e andava avanti. Reclamava l'imposta progressiva sul reddito, la federazione europea, l'istruzione del popolo e larghissimi incoraggiamenti alle arti. Quando anche il paese assicurasse a uomini come Delacroix o Hugo una rendita di 100.000 franchi, che male ci sarebbe? Il tutto si chiudeva con una serie di consigli ai ceti elevati. Voi che avete, dovete dare senza risparmio. Dare, dare, dare. Aveva finito e restava in piedi. I suoi due ascoltatori non parlavano. Martinon aveva gli occhi fuori dalla testa. D'Ambreuse era pallidissimo. Alla fine, dissimulando l'emozione sotto un sorriso acido, davvero perfetto il suo discorso, e ne lodò molto la forma per evitare di pronunciarsi sul contenuto. Tanta violenza da parte di quel giovane inoffensivo gli faceva spavento, soprattutto come sintomo. Martinon si sforzò di rassicurarlo. Fra non molto il Partito Conservatore si sarebbe preso la sua rivincita, era una cosa sicura. In parecchie città i commissari del governo provvisorio erano stati cacciati. Le elezioni erano state fissate soltanto per il 23 aprile, c'era tempo. Insomma, bisognava che fosse D'Ambreuse in persona a portarsi il candidato per il collegio dell'Aube. E da quel momento Martinon non lo abbandonò più, diventò il suo segretario, lo circondò di premure filiali. Federico tornò da Rosanette tutto contento di se stesso. C'era Delmar che gli annunciò definitivamente la sua candidatura per le elezioni della Seine. In un manifesto al popolo, al quale si rivolgeva dandogli del tu, l'attore si faceva un vanto di comprenderlo lui ed essersi fatto crocifiggere per l'arte a suo esclusivo beneficio, diventando così la sua incarnazione, il suo ideale. Era convinto, in effetti, d'avere sulle masse un'influenza enorme, al punto che più tardi, in un ufficio del ministero, si offrì di sedare da solo una sommossa. Quanto ai mezzi che pensava di impiegare, la risposta fu la seguente: «Non pensateci, basterà che mi guardino in faccia». Per mortificarlo, Federico gli notificò la sua di candidatura. Visto che il futuro collega puntava sulla provincia, il Guitto gli offrì il suo aiuto e gli propose di introdurlo nei circoli. In effetti, li visitarono tutti, o quasi. Rossi e azzurri, furiosi e tranquilli, puritani e scollacciati, mistici e avvinazzati, quelli dove si decretava la morte dei re e quelli dove si denunciavano le malefatte dei droghieri. Nonostante la debolezza degli oratori, Federico non osava buttarsi. Tutta quella gente gli sembrava o troppo ignorante o troppo maldisposta. Ma Dussardier, messosi personalmente alla ricerca, gli annunciò che in Rue Saint-Jacques esisteva un circolo chiamato Club dell'Intelligenza. Un nome simile dava da sperare, e poi ci avrebbe portato i suoi amici. Portò, in effetti, gli stessi che aveva invitato per il punch. Il contabile, il rappresentante di vini, l'architetto, c'era persino Pellerin, forse sarebbe venuto anche Isonet, e davanti alla porta, sul marciapiede, stazionava Régine Bar, in compagnia di due individui, il primo dei quali era il fedelissimo Compain, un tipo piuttosto tozzo, segnato dal vaiolo e con gli occhi arrossati. Il secondo, una specie di scimmione dall'eccezionale capigliatura, noto allo stesso Pellerin semplicemente come un patriota di Barcellona. Federico ebbe cura di mettersi fra Dussardier e Régine Bar, il quale, non appena si fu seduto, incrociò le due mani sul bastone, appoggiò il mento sulle mani incrociate e abbassò le palpebre, mentre Delmar, ritto in piedi all'altra estremità della sala, dominava l'assemblea. Allo scranno del presidente fece la sua comparsa Senecal. Federico ne fu notevolmente contrariato. La seduta fu aperta con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, atto di fede abituale. Il presidente annunciò infine che si sarebbe passati all'argomento più importante, la questione elettorale. Le grandi liste repubblicane non erano in discussione. Il Club dell'Intelligenza, tuttavia, si riservava, come tutti gli altri circoli, il diritto di proporne una, con buona pace dei sultani del municipio, e i cittadini che aspiravano al mandato popolare potevano esporre i loro titoli. «Coraggio, dunque!» disse Dussardier. Federico si alzò. Si produsse, grazie ai suoi amici, un mormorio d'approvazione, ma Senecal si mise a interrogarlo. Nome e cognome, precedenti, vita e costumi. Federico rispondeva sommariamente, mordendosi le labbra. Senecal domandò se qualcuno vedeva impedimenti a questa candidatura. «No, no!» Ma lui sì che ne vedeva. Tutti si protesero in avanti per sentire meglio. Il 22 febbraio, pur essendo stato regolarmente avvertito, aveva disertato il raduno del Pantheon. «E io vi giuro che si trovava alle Tuileries!» esclamò Dussardier. «Potrebbe giurare anche d'averlo visto al Pantheon?» Dussardier chinò il capo. Federico taceva. I suoi amici lo fissavano tra inquieti e scandalizzati. «C'è almeno, continuò Senecal, un patriota che possa farsi garante dei suoi principi?» «Io», disse Dussardier, «non è sufficiente, un altro!» Federico allora diede di gomito a Régimbard. «Già, ha ragione, è il momento di muoversi». E Régimbard, scalata la pedana, attirò con un gesto l'attenzione sullo spagnolo che l'aveva seguito. «Cittadini, permettetemi di presentarvi un patriota di Barcellona!» Il patriota salutò profondamente, roteò come un automa i suoi occhi d'argento e, mettendosi una mano sul cuore, «Ciudadanos, mucho aprecio el honor que me dispensáis, y si grande es vuestra bontad, mejor es vuestra atención». «Chiedo la parola», disse Federico. «Desde que se proclamó la Constitución de Cádiz, ese pacto fundamental de las libertades españolas...» Federico tentò ancora una volta di farsi sentire. «Ma cittadini!» Lo spagnolo continuava. «È una cosa assurda! Nessuno capisce una parola!» Questa osservazione irritò terribilmente la folla. «Fuori! Fuori! Alla porta!» «Chi? Io?» domandò Federico. «Proprio lei!» disse maestosamente Senecal. «Se ne vada!» Mentre si alzava per uscire, la voce dell'Iberico lo perseguitava. Anna Buonaiuto ha letto L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.